1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci, cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti. Ah, quanti messaggi, quanta gente arrabbiata che ci ha scritto, ci ha mandato anche via WhatsApp degli audio al 349-238-6666. Li stavo ascoltando ora per il caso della Doina Matei, no? Vincino hai creato un casino a dire l'ergastolo è incivile, l'ergastolo a dire cose di buonsenso. Hai creato un casino, gente arrabbiata, pena di morte. Uccidiamola, uccidiamo anche te, Vincino. Ti mettiamo a rogo, ti impaliamo. Vabbè, insomma, la pancia si è svegliata e ci ha riversato messaggi e insulti. Va bene così, va bene così. Voi dite quello che volete, noi compatibilmente con la terminologia non troppo volgare mandiamo in onda e mandiamo in onda con massima libertà. Intanto, cari ascoltatori, andiamo e tuffiamoci nella lettura dei giornali, quelli molto molto allegri, quelli molto felici, quelli molto simpatici da leggere. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Era un assist per Peter Bescapè, adesso che con Brocchi arriva il bel giuoco, è ciò che chiede Berlusconi, ci vuole il giuoco, perché il Milan non ha mai giuocato così male, e allora adesso arriva il brichi bracca, il brocchi bracca, il triki tracca, il tiki taka del Milan. Brocchi, signori! Va bene, niente, rientriamo in me. È giovedì 18, sì, ecco, è giovedì 14 aprile, giovedì 14 aprile, cari ascoltatori. Intanto le notizie di prima pagina. Non c'è un'apertura che mette insieme tutti i giornali, che mette d'accordo, perché vedete un po', il Sole 24 Ore apre sulle borse, fiducia sulle banche, seduta di euforia per i listini, mentre il Corriere della Sera l'allarme immigrazione, record di sbarchi dalla Libia, e il Viminale, che è il Ministero dell'Interno, dice servono 15.000 posti. Repubblica invece, lavoro si cambia, arriva il part-time per 400.000 italiani. Mentre La Stampa, Brennero, la condanna di Mattarella. Pensioni, la svolta part-time e l'apertura anche del Messaggero. Così anche il giornale, la rivoluzione delle pensioni. Mentre Avvenire, ragazze perdute da 2 anni rapite nella Nigeria dei baby kamikaze. Quindi apre sulla Nigeria. L'apertura invece di Libero, indagati i vertici dell'INPS, la grande truffa. Il Fatto Quotidiano sulle trivelle, la trivella avvelena la Sicilia, il governo le proroga i permessi. Questo il titolo di prima pagina. Però nomi, i Panama Papers. Attenzione, perché domani esce la nuova puntata sull'Espresso e i nomi che vengono anticipati da Repubblica sono nomi un po' più altisonanti rispetto a quelli della prima tornata, perché sentite qui Flavio Briatore, Adriano Galliani, due società di Berlusconi nei conti offshore, anche il re delle farmacie Pessina, secondo l'Espresso. È beneficiario di una holding. Allora, anticipa tutto Repubblica, Fabio Tonacci a pagina 29, Flavio Briatore, Silvio Berlusconi, Stefano Pessina, Adriano Galliani, ma anche Emanuela Barilla. Mentre a Parigi si prepara il vertice internazionale delle agenzie fiscali per una task force che setacci uno per uno i Panama Papers, ecco che dal leak di documenti riservati dello studio Mossack Fonseca Panama escono società riconducibile ai cognomi più noti dell'imprenditoria italiana. Lo scrive l'Espresso. Alle isole Vergini Britanniche spunta la Sport Image International, società della galassia di Berlusconi, che una ventina di anni fa fu coinvolta in un'indagine per pagamenti in nero ad alcuni calciatori del Milan, tra cui Gullit e Van Basten. Come amministratore della Sport Image sono indicati Adriano Galliani e due manager a quell'epoca targati Fininvest, Foscale, Gironi. E poi Briatore, Briatore anche lui, quando il suo nome già spuntò nella lista di Hervé Falciani, lui non fece una piega, dicendo «Evasore io, veramente dovrebbero darmi una medaglia», e non si scompose nemmeno quando venne fuori che alla sua cuoca, al tempo in cui era direttore della Renault in Formula 1, era intestato in Svizzera un conto da 39 milioni di euro. E poi anche Emanuela Barilla, secondo Repubblica, che cita l'Espresso, azionista del gruppo della pasta, risulta avere una società offshore, la Jamers International, alle Isole Vergini, mentre Stefano Pessina, dell'industria farmaceutica, controlla insieme alla compagna un offshore dal nome che è Farniente Holding, un nome che è un programma, secondo Repubblica. Vabbè, i nomi che quindi escono nuovamente sui giornali. Mentre c'è da dire una cosa, che Libero da due giorni con Marianna Baroli racconta il destino purtroppo crudele di alcune società che hanno fatto commesse per l'Expo, poi non sono state pagate e sono fallite. Il secondo caso viene raccontato oggi dopo la Tecnochem di Bergamo, succede alla Stratex di Udine. Lavori a Expo e poi muori. Ecco un altro crack. Fatali, i mancati pagamenti milionari, fallisce questa azienda friulana. Era intervenuta pure al padiglione cinese. È un'azienda familiare, nata come una semplice segheria 60 anni fa nella Carnia, cresciuta con il passare degli anni, specializzata in bioedilizia, case legno e produzione di legno lamellare. Fa una commessa con l'Expo, una commessa milionaria, perché si tratta di un bando di gara vinto da 6,2 milioni di euro, che comprendeva, oltre alla posa, la realizzazione dell'opera e la creazione di opere accessorie, e poi le commesse non vengono pagate, i conti in rosso e il fallimento. E viene raccontato tutto a pagina 9 di Libero, sotto anche la dicitura non poco polemica: l'eredità di Sala. Ma eccolo qui. Allora, vogliamo tornare sul caso, visto che ne abbiamo parlato, tornano i giornali, il caso di Doina Matei, che sta facendo molto discutere, sta facendo questionare, la gente reagisce anche distinto e non si ferma magari a riflettere sul peso delle parole, quello che abbiamo detto, e ribadisco anche qui, è questo: se uno vuole contestare la tenuità della pena per una ragazza che ha ammazzato con un'ombrellata Vanessa Russo, su quello si può discutere, possiamo discutere all'infinito, e posso essere anche d'accordo che 16 anni poi mitigati, buona condotta, che portano una persona dopo 7-8 anni a uscire in semilibertà, possano essere pochi, sono d'accordo. Ma se queste sono le leggi, non si capisce perché mettere delle foto in bikini su una scogliera possano farle togliere il regime di semilibertà. Ora però il giudice pare che abbia specificato che non sono tanto le foto di lei allegra, felice, che le hanno fatto togliere la semilibertà, perché sarebbe quasi uno spirito di vendetta, no? Ma il fatto che mentre ha fatto quelle foto, in realtà doveva andare a lavorare nel programma di regime di semilibertà, e quindi ha violato da questo punto di vista una legge. E su questo allora il magistrato ha fatto bene a toglierle il regime di semilibertà. Comunque, Doina, quelle foto costate la semilibertà, una pagina del Giorno, e c'è il senatore Manconi che dice: non si può sospendere la Costituzione, perché la sospensione della semilibertà è un passo che il senatore non condivide, in quanto, dice Manconi, attraverso l'avvocato difensore, so che non c'era alcun esplicito divieto di ricorrere a Facebook. Però, ripeto, qui anche il senatore Manconi forse è indotto in errore, nel senso che pare che la decisione del giudice della sospensione di semilibertà non sia dovuta al fatto di aver messo delle foto su Facebook, ma il fatto che quelle foto sono state scattate mentre lei doveva stare invece da un'altra parte al lavoro. Allora, in questo senso, la storia potrebbe essere riscritta. Comunque, sul Messaggero c'è l'intervista alla mamma e al papà di Vanessa Russo, che chiaramente ripiombano nel dolore rivivono tutta questa vicenda. Mia figlia è nella tomba e lei in spiaggia. Per noi vedere quelle foto è stata una coltellata al cuore, dicono al Messaggero. L'intervista la trovate a pagina 13. Sono Giuseppe e Rita, i genitori di Vanessa. Noi ci aspettavamo l'ergastolo, dal primo giorno ci aspettavamo il carcere a vita, invece ne è andato 16 anni. Pochi per aver ucciso volontariamente una ragazza di 22 anni, bella come il sole, buona come il pane, una figlia d'oro, il nostro orgoglio. Ma i giudici hanno riconosciuto l'omicidio preterintenzionale, non volontario. I giudici, ma non noi, per noi era volontario. Quell'assassina, noi la chiamiamo così, ha conficcato un ombrello in un occhio di mia figlia per uno screzio stupido, uno spintone in metropolitana. Sa cosa significa? Che se uno dà una botta e basta con la punta di un ombrello, la vittima rischia di perdere un occhio e poi metterà l'occhio di vetro. Invece quella ha agito con violenza, cattiveria pura, con forza. Le ha tagliato la aorta cerebrale e ha ucciso mia figlia, proprio uccisa. E alla domanda finale, guardate che Doina, l'assassina, dice di voler andare a inginocchiarsi sulla tomba di Vanessa. Per carità, non ci provasse, rispondono i genitori, non si avvicinasse neanche al cimitero. Siamo pronti a mettere le telecamere. Insomma, la rabbia è questa comprensibilissima dei genitori. Il Messaggero dedica due pagine a questa storia, la killer, le foto al mare, torna in carcere Doina tradita dal telefonino. In realtà il ministro Orlando dà un'altra spiegazione, cioè il beneficio della semilibertà era vincolato a un uso limitato del cellulare. Che vuol dire? Cioè, chi è che stabilisce l'uso limitato? Vabbè. Comunque, siamo al momento del premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata, potremmo dire mani sulla cloche oggi, perché si parla di aerei e non di aerei particolari, ma dell'aereo, quello con la maiuscola, del super aereo, dell'Air Force Renzi, del mega super jet che scrive il giornale. Renzi ha fatto prendere ma non decolla. E c'è uno spreco mensile da 1.300.000 euro. È l'imponente Airbus 340-500 ancora fermo a terra perché è stata bloccata l'immatricolazione in Italia. E allora, Air Force Renzi? No, non chiamatelo così, un po' perché il Premier ci tiene a non presentarlo come cosa sua, ma come aereo di rappresentanza capace di trasportare nelle missioni diplomatiche all'estero l'intero sistema Italia. Comunque, sta di fatto, racconta Giuseppe Marino a pagina 4, che l'imponente Airbus resta inesorabilmente a terra, parcheggiato in un hangar dell'aeroporto di Fiumicino. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Christian Brocchi dell'informazione. E vabbè. Allora, immigrazione. Molti giornali, alcuni giornali, aprono su questo. Intanto l'allarme che arriva dalla Libia, dove si parla di 1.000.000 di persone pronte a partire. I migranti economici. È la rotta quella dall'Africa subsahariana. Arrivano in Libia, partono da lì per arrivare e sognare l'Europa, non tanto l'Italia. Però è chiaro che sbarcano molti di loro in Italia. Allora ecco che il Viminale, il Ministero dell'Interno, scrive a pagina 2 del Corriere della Sera, ha fatto una circolare, servono altri 15.000 posti con urgenza. Noi siamo un paese così, viviamo sempre sull'emergenza e sull'urgenza, e allora 15.000 posti servono. Tra l'altro è il giorno in cui Mattarella, il capo dello Stato, ha fatto un appello contro i muri in Europa, definiti da lui un gesto di autolesionismo. È evidente che pensava anche a quello che sta succedendo al confine tra Italia e Austria, al Brennero, quando, come racconta Marzio Breda a pagina 5 del Corriere della Sera, il capo dello Stato dice: non basteranno muri e barriere a proteggerci se l'Europa non farà passi avanti come progetto comune. Abbiamo lavorato 70 anni per abbattere i muri che ci dividevano, non lasciamo che rinascano, ha aggiunto Mattarella, creando diffidenze e tensioni laddove al contrario servono coesione e fiducia. e poi ha definito le barriere una zavorra. Certo, la situazione rischia di implodere soprattutto con l'arrivo della bella stagione e soprattutto quando al largo dell'Italia, ricordiamolo, abbiamo un paese, la Libia, che è tutt'altro che pacificato, perché è vero che l'ONU, la comunità internazionale, ha messo lì un governo, il premier si chiama al-Sarraj e due giorni fa Gentiloni è andato come ministro degli esteri a fargli visita. Ma guardate che la situazione in Libia è tutt'altro che chiara e pacificata. Volete una prova di questo? Pagina 4, La Stampa. Francesco Semprini, che è inviato per La Stampa a Tripoli, intervista Khalifa Gwell. Chi è Khalifa Gwell? È il premier del governo di Tripoli, non riconosciuto dalla comunità internazionale, ma secondo lui stesso ben riconosciuto all'interno invece del paese. Tanto che dice Gwell: noi controlliamo l'80% del territorio e se arriva uno qualsiasi e pretende di comandare perché è sponsorizzato da Europa o ONU, non ci interessa. Noi facciamo gli interessi del popolo libico. Si riferisce dunque al premier al-Sarraj, premier designato secondo il premier di Tripoli imposto. E tra l'altro guardate qual è il succo dell'intervista. Il blitz di Gentiloni in Libia è stato un atto di illegalità e non è affatto piacevole quello che ha fatto il governo italiano, dice il premier di Tripoli, soprattutto alla luce dei buoni rapporti che Italia e Libia hanno avuto per molti anni. Se dovesse ripetersi, faremo una denuncia all'ONU e siamo pronti a opporci con tutta la forza. Al che Semprini chiede: ma scusi, è un avvertimento? Assolutamente sì. Capite che non è molto bello se un premier che dice di controllare l'80% del territorio e sta a 70 miglia dalle nostre coste è totalmente scontento della nostra gestione e minaccia ritorsioni. Ora immaginate, mettete tutto questo in un potenziale cocktail e chiedetevi se arriveranno nei prossimi mesi tanti migranti sulle nostre coste. Poi non dite che non si sapeva. Allora, venendo alle cose italiane, invece la novità più importante riguarda le pensioni, è una notizia che c'è sulle tasse e che è data dal Foglio. Le pensioni è una notizia che c'è ovunque, riguarda il part-time incentivato prima della pensione, riguarda molti italiani. Ed è una cosa molto interessante perché, attenzione, i lavoratori del settore privato, stiamo parlando di italiani del settore privato. Tutti coloro del settore privato che sono vicini alla pensione, cioè avranno i requisiti per la vecchiaia entro il 2018, dunque sono negli ultimi 3 anni di lavoro, potranno usufruire del contratto a tempo parziale agevolato. Come raccontano Claudio Tucci e Giorgio Pogliotti a pagina 8 del Sole 24 Ore, cosa significa? Che gli interessati potranno concordare con l'azienda una riduzione dell'orario di impiego tra il 40 e il 60%, dunque lavorare la metà. In cambio riceveranno una retribuzione ridotta, ma non della metà, una retribuzione che è circa dei 2/3. E inoltre questo non inciderà sulla loro futura pensione. Perché sarà lo Stato a riconoscere la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione effettuata. Quindi si lavora la metà, si guadagna 2/3, si guadagna non la metà, questo in un accordo che deve essere fatto con il datore di lavoro nel settore privato e non si incide negativamente sulla pensione futura. È il part-time incentivato, eccolo qua. Ti mancano 3 anni alla pensione? Puoi scegliere il part-time agevolato, così titola Il Giorno, mentre per Repubblica il part-time con contributi pagati per i dipendenti vicini alla pensione. Insomma, il governo punta molto a questa misura. Mentre attenzione, perché il Foglio, con il suo direttore Claudio Cerasa, dà una notizia. In prima pagina Cerasa ha lanciato questa iniziativa sul Foglio a dire Renzi deve tagliare le tasse, fare una drastica riduzione fiscale. E l'annuncio, secondo il Foglio, ci sarà. Guardate un po', ci sarà nella settimana tra il 16 e il 22 maggio. A pensare male si fa sempre peccato, ma a volte ci si azzecca, come diceva quel tale. Anche perché, scrive il Foglio, non è un caso che verrà dato l'annuncio in quella settimana, visto che si vota il 5 giugno per le amministrative. Quindi non è che penso male io, pensa male anche Claudio Cerasa del Foglio. evidentemente. Comunque, che cosa ha deciso Renzi? 2 anni fa la mossa era quella degli 80 euro. Ora, la scelta del Premier è quella di annunciare il drastico taglio della pressione fiscale sul lato dell'IRES, cioè l'imposta sul reddito delle società, per un valore compreso tra i 2 e i 3 punti percentuali, con un costo dell'operazione stimato tra i 2,4 e i 3,6 miliardi. Il timing dell'annuncio, eccolo qua in prima pagina del Foglio, settimana tra il 16 e il 22 maggio. E per il reperimento delle risorse vale lo schema proposto ieri sul Sole dal ministro dell'economia Padoan, e cioè taglia la spesa per rendere credibile la riduzione della pressione fiscale. Caro Mauro Meazza, hai messo la sveglia? Hai messo la sveglia il 16 maggio? Pronto? Guarda, molto prima, buongiorno. Molto prima in realtà, perché invece ti volevo ricordare di presentarti ben in ordine domani. Ah, ok. Devi andare dal parrucchiere, devi sistemare, eccetera. Domani, mi raccomando, giacca e cravatta. Perché? Perché domani ci viene messo in rete il modello precompilato. Sei contento? Lo aspettavi? Oh. Ecco, allora, sul Sole 24 Ore di oggi, anche una serie di domande e risposte sulla precompilata. Guarda che quest'anno si può anche fare congiunto. È una novità interessante. E poi i rimborsi anche per chi fa il modello unico diventeranno più veloci. Insomma, oltre al part-time incentivato di cui hai dato notizia prima, mi stupisce questo tuo interesse per la pensione. Per la pensione tua. Ma per la pensione mia, vabbè. Nel senso che vorrei appropriarmene. Sì. Sono anzianotto, ma non sono ancora così vicino ai requisiti del part-time incentivato. Mi sorprende invece da parte tua che sei molto più giovane, decisamente più giovane. Leggi bene comunque il Sole 24 Ore di oggi, perché tra le altre cose ti segnalo che c'è un stato lato di indirizzo tra i sindacati e il governo per aprire gli ambulatori 16 ore al giorno, gli studi medici 16 ore al giorno. Trovi tutti i dettagli nelle pagine di norme e tributi. Questa è una cosa, quindi... No, ma guarda, Mauro, fai bene adesso, per un attimo, siamo a serio. Una cosa molto importante, perché può incidere sulla salute e può interessare milioni di italiani. Infatti, voglio precisare, allora, sempre in tema di serietà, che la misura è una misura ancora da finire di attuare, però questo passaggio era quello cruciale per poterla, come dire, progettare e farla partire in tempi, non voglio dire rapidi, ma insomma ragionevoli. Oh, poi ti diamo delle anticipazioni, perché settimana prossima si vorrà intervenire sui fallimenti. Come sai, si parla di decreto legge per quanto riguarda il tema fallimentare, e Giovanni Negri oggi ti dà delle anticipazioni su quello che potrebbe cambiare forse già da lunedì prossimo. Addirittura. Ricordati, non esageriamo. Ricordati che il giovedì, come è oggi giovedì, c'è Casa 24, siamo andati a vedere come rendono gli investimenti nei box, perché il box è tornato a essere un investimento interessante. E poi anche, visto che parliamo di mattone, anche il bonus mobili, cioè quello sconto che il fisco assegna da pochissimi anni per i mobili, quanto ha reso? Te lo raccontiamo alle pagine Imprese e Territori. Ma la notizia che ti voglio segnalare per ultima è che c'è un compratore per il Milan. Ci sono trattative addirittura a New York. Ne riferiamo nelle pagine di Finanza e Mercati, che tu quindi leggerai avidamente. Sì. Io penso che sarai contento di questa cosa, quindi anche i voucher per il vostro nuovo allenatore a tempo. Come si chiama? Donald Trump? No, si chiama Salvatore Galazzotto, è un italo-americano. Ma trovi tutti i dettagli sulle pagine di Finanza di oggi. Quindi leggi avidamente, e nel frattempo, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, l'Atletico Madrid dell'informazione! Questo è un po' meglio di Brocchi per il momento. Grande Atletico Madrid che ha eliminato il Barcellona, incredibile. Allora... visto che si parlava di pensioni, c'è da dar conto anche dell'apertura di Libero, indagati i vertici dell'INPS. Questo è il titolo dell'inchiesta di Giacomo Amadori. parla dei sei tra i più importanti dirigenti, almeno due ex dirigenti, oltre a decine di funzionari. Molti di loro sono accusati di che cosa? Erogare false pensioni, mentre altri del contrario, cioè gonfiavano i numeri delle finte prestazioni scoperte per incassare i premi. Beh, una vicenda che viene titolata poi così a pagina 3, pensioni farlocche, indagati sei dirigenti dell'INPS. In pratica, in questo vaso di Pandora scoperchiato dagli inquirenti, ci sarebbero dirigenti e funzionari che incassavano premi di produzione gonfiando i risultati delle ispezioni, ovvero certificando di aver scoperto molte più truffe di quelle reali, mentre nell'ufficio accanto a loro c'è chi incassa incentivi in busta paga erogando prestazioni fittizie che qualcun altro annullerà traendo profitto a sua volta. Tutta una vicenda un po' complicata che viene spiegata da Giacomo Amadori, pagina 1, il titolo di prima pagina, e poi pagina 3 di Libero, e che riguarda le pensioni, visto che abbiamo parlato di pensioni, anche se da un altro punto di vista decisamente. Per quel che riguarda invece la politica, vi faccio notare che Renzi ha risposto, adesso ha trovato questa modalità su Facebook, Matteo risponde, si mette lì in video e risponde alle domande in diretta di tutti coloro che lo seguono. Ha annunciato le unioni civili entro aprile, poi ha detto anche questa frase a chi lo accusa di non essere stato eletto: in 63 governi su 70 di vita repubblicana, sapete quanti sono i presidenti eletti? Zero, perché la Costituzione prevede che il Presidente del Consiglio non sia eletto ma ottenga la fiducia delle Camere. Questo Matteo Renzi. E poi ha parlato ovviamente di tante altre cose, mentre ovviamente nel giorno in cui ci sono i funerali di Casaleggio ci sono ancora tanti articoli che cercano di capire e scrutare cosa succederà nel movimento domani, dopo l'assenza di uno dei suoi due leader fondatori. I giornali si concentrano sul fatto che ci sarebbe anche una lotta sulla questione di Di Maio, leader secondo per esempio Repubblica. Sia il figlio di Casaleggio, Davide, sia Fico, uno degli storici, uno del direttore del Movimento 5 Stelle, sarebbero contrari a mettere un leader, in questo caso leader Di Maio. Mentre nel giorno della scomparsa di Casaleggio arriva il sistema cosiddetto Rousseau, che è stato messo a punto proprio dallo stesso Casaleggio, un sistema per votare, la piattaforma insomma per votare online per il Movimento 5 Stelle. Pare che una delle richieste proprio di Casaleggio fosse questa: nel momento in cui non ci sarò più, mettete Rousseau a disposizione di tutti quelli del Movimento 5 Stelle. Va bene, per quel che riguarda invece l'inchiesta di Potenza, pare che sia verso l'archiviazione la posizione del sottosegretario Vito De Filippo, sottosegretario alla salute, è stato presidente della regione Basilicata, è indagato per la vicenda di presunti scambi di favore con l'ex sindaco di Corleto Perticara, ma raccontano i giornali, ieri Repubblica dava notizia di questa vicenda, oggi gli sviluppi sono questi: che è andato subito dai PM, ha chiarito la posizione e secondo le indiscrezioni dei giornali la sua posizione verrà archiviata, il sottosegretario verso l'archiviazione, questo è il titolo del Corriere della Sera per esempio. E poi che dire sulle amministrative? Attenzione, perché arriveranno tra poco le decisioni dell'antimafia. Soprattutto l'antimafia si concentrerà sulle liste dei comuni, soprattutto di Roma, dove c'è Mafia Capitale, sappiamo l'inchiesta. E allora ci saranno migliaia di candidati e la presidente antimafia Rosi Bindi fa sapere: solo 48 ore per controllare tutti i nomi. Manca infatti il casellario giudiziario dei carichi pendenti, manca la banca dati candidati, degli eletti, della loro situazione giuridica. Insomma, l'allarme preventivo viene messo dal presidente della commissione antimafia. I riflettori sono soprattutto su Roma e soprattutto, attenzione, scrive Claudia Voltatorni sul Corriere della Sera, i riflettori sono e i timori sono per Bertolaso, che è sotto processo. come verrà giudicata la sua posizione per i due procedimenti in corso, uno sul G8 della Maddalena, l'altro legato al terremoto dell'Aquila, visto che ha rinunciato alla prescrizione, verrà giudicato candidabile? Vedremo. Ma siamo alla carta costa, dispiace ancora, ma ancora Vittorio Sabadin vince per La Stampa mezza pagina. Sulla Stampa pagina 27 racconta una storia anche piacevole, romantica, è quella del polpo Inchi, il polpo Inchi che è riuscito a fuggire dall'acquario nazionale della Nuova Zelanda, come nel film La ricerca di Nemo, cioè è riuscito a trovare la tubatura con condotto che porta fino al mare, il polpo Inchi. Ma chi se ne frega!